stamattina, come non sei entrato, sono andato a Platamona a farmi un giro, e tu aspettiamo che entri Antonio, invece mi sei entrato. Sono lì. A Platamona, il cazzo di gente che vede, a pari di sì. Mica è quel posto, piace mi andare in quel posto. Allora ti mando una cosa, ti mando. Ma la gente che c'era, bubu, sembrava l'estate. Ecco qua. Vabbè. Ce l'hanno fatta tutti, pure noi l'abbiamo fatta. Si apre il coso, lo vedi? Si apre il WhatsApp. Cappa. Ce l'hanno fatta tutti, la riuscita l'abbiamo fatta pure noi, a maniera nostra, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, lo senti? E dove l'hai fatta la riuscita? A secondo pettine, sono andato lì, nella parte più che mi rompono le scatole, c'è l'acqua, c'è la fontanella lì, e ho fatto la lungotrosa cizzone, e abbonare il decido, come lo faccio io, al naturale, mi ho fatto così arrotolato con i sticchini dentro, e ho fatto cucina piano piano. Insomma, ma come funziona quel fornetto? Una bomboletta. Una bombola? Almeno avete mangiato. Ho una foto dove c'ho anche la bomboletta che si vede proprio. Sì. Guarda. La stavo controllando. Eppure noi stavamo fatto la cosa. Aveva tanto tempo che lo dicevo, Marito uscito. E tu? Cosa hai fatto? Nulla? Sono sceso a Platamona, poi mi ho fatto il giro da Porto Torres, poi sono disceso dalla panoramica, dalla torretta, sono andato alla rotonda, stavo parlando con Gianni Rubloffetta, poi è stato Bruno Uragano. Insomma, poi è stato anche Claudio. Ragazzi, Barbiero. Claudio chi? Bruno Uragano, l'antenna messa ce l'ha. Se l'ha messa, ma a quanto pare non va bene. Cosa, chissà, la sapparà Edo. Ma li ha mai usate quelle antenne? Lo so, Edo, come sta andando? Questo qui è il Cobra, quello piccolo, quello che fa con lui. Bene, sento bene. La radio bene va, questo qui è l'M93 con la capsula camuffata. Ah, già va bene, già. Cappa. Quel tipo di antenne le metti a 1,1 e vanno bene per forza. Non possono andare bene, ce l'avevo anch'io. Vaga. Vabbè. Già vanno bene, si è fatto un attimino che abbasso il delay, se no mi piace andare così. Così si può usare anche al massimo il microfono. Oh, ragazzi, così dovrebbe andare bene, vero Antu? Cappa che va bene. Sì, perché questo qua c'è il compressore, capito? Secondo come altro non puoi usare il microfono amplificato. Siccome questo è amplificato, anche se non sembra, perché sembrano microfoni normali questi. Sì, già ho capito, già. Comunque già va bene. Oh, yeah. Sono preamplificati, cioè vanno dalla... Io mi devo mettere a posto il 550 che... Cavolo. Mi si è staccata qualcosa, è successa, torna qualcosa al microfono, è successa. Mi si è staccato qualche filo, perché cosa fa? Noi sì, importante. Dove lo dire staccato? Cioè, lo coso anda, come si dice, lo smitta esatta, però non va in modulazione. È la batteria nuova, Ma che batteria? Non è a batteria. E quando mai? Il 550 sto parlandomi, l'Intec, quello è tutto, quello va bene già a me, non ne ha bisogno di microfono amplificato. E non so se non me lo ricordassi, quello compra la gente. come mai anche questa cosa? E allora probabilmente qualche filo staccato, ok, per tocca e non tocca. Sicuramente non è che sia tanto pratico, ma lo porto a qualcuno e me lo faccio fare. Io sono andato a farmi l'apparecchio, cavolo, ce l'ho avuto per 10 anni. E andavo a fare una cannonata. Ma appena che mi decido, l'ho portato a qualcuno, me lo porto a mai da appena appena, vedi cosa va. No, già, è tranquillo, da chi lo porto già rosato, ho fatto gioio. Sono sicuro che me lo fa benissimo. Se lo porto sia Luca che Antonello, me lo fanno bene proprio. Lavorano bene, caspita. Antonio è bravo me, non sta mai da così me. A fare qualcosa. Cioè, io l'ho visto e lavora bene. Ma non è così no. Aspetta che vado un attimino in bagno. Va 1, 2, 3. 3 batte e mezzo. Sì, andava. Aspetta che scendo in bagno un attimino. Oh già. Vai tranquillo. Bippi di oro, bip, bip. Questo qua praticamente è il 3009. Io ce l'ho. C'ho 87, ciò che è all'incirca, sono cucimmi. Questo è il 3009 e c'ha una settimana di vita, ordinato e è arrivato da poco, dai. Però questo qua vorrei provare a vedere se attaccando va bene. Ma cosa è questo 3009? È l'abbigliato nuovo? Non lo fanno ancora? Sì, lo fanno ancora. L'ho preso nuovo, sì. L'ho preso nuovo. Vorrei provare se è un capo come qua. Se è distorto, non voglio sapere. Aspetta. Non mi dico se è distorto o no. Avanti. Prova a vedere come va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Benissimo. La radio com'è? Va bene già, va bene. Non distrugge perché c'ha 3 watt e quindi è perfetta. No, ne ha 4 e mezzo questa qua. Infatti volevo sapere se andava bene, dai. Quello lì volevo sapere. Vabbè, già mi sembra che stia andando bene. L'unica cosa è la radio che mi interessa, se è forte o se è normale. No, va benissimo, va bene. Non ha nessun tipo di problema. Non ha nessun tipo di problema perché... perché è giusto, capito? Quindi no, non ti può andare in saturazione. Two, three, four, five, six, seven. Ah, già va bene. Vabbè, adesso lo spengo, adesso lo lascio per provare. Scappa. No, ma comunque no. No, quando no... bisogna capire molte volte che anche quando uno si ha 10 watt, magari, non so, cioè, logico, va in saturazione perché sono 10 e magari sono 11, 12 modulate. Ecco perché poi danno problemi. Invece quando è così va bene, magari sono con adesso sono 4 e quasi 5 modulate, va bene, non va in contrasto. E va bene, sì. K. E adesso che segnale c'ho normale, dici? Sì. 9, 25 Radio 5. Questo qui è il microfono normale, ma va bene, perché non siamo lì dentro con la musica. Ah, che già andava. È la radio normale questa qua, dai. Cavolo, va bene, sì. Andava anche tu. Facciamo così allora, dai. No, vanno bene, vanno. 3009 è buono come apparecchio, a me è sempre piaciuto. Poi c'ha un circuito normale, non c'ha quello con microcircuito, dai. C'è un circuito normale di quelli che ci si può lavorare, ci si rompe qualcosa, è un'altra cosa. Scappa. E chi la fa? Che marca è che lo fa adesso, 3009? Superstar, cos'è? Sì, Superstar 3009. Questi però arrivano da fuori, capito? Sono omologati invece che omologati. Sono omologati, però hanno 200 passacanali. Ho capito. No, ma già vanno bene, già va bene. Io adesso se abbasso questo, vado. Prova. Vedi che non mi sentito più, vado a mettere lì sotto. Sì, vabbè, è normale. Se vuoi ti bici come? Se bici? Ma lo so, tu sai, se ti ne accorgi, ho avuto anche io una parecchia di continuità, ne ho avuto due esattamente. Capa, vedi, sono una sobianetta, ho avuto 240. Capa. Sono un altro pianeta già, lascia perdere. Uia. Lo so, anche lo so. Capa, io sono contentissimo, sono. È meglio così anche. Interessante che sei contento. Poi se usi questi non disturbi. Gli altri possono disturbare come non possono disturbare, quello è il problema. Io ero sempre cagato che magari mi sentivano, capito? Cosa hai, sono disturbato nessuno. Vabbè, magari i negriti non ne capiscono nulla. Non mi disturbo, lo guardo, l'ho visto nella televisione. L'ho visto e no, non è vado in righi. Dipende sempre come l'antenna del televisore, anche a volte è vecchia per quello che lo fa. Io nel mio condominio gliel'ho fatta cambiare, mi hanno mandato un tecnico per controllare tutto quanto. E salito su, capisci, c'era l'antenna pratica. Allora, se la cambia, molte volte anche questi scemi qua, non fanno troppo l'amplificatore, bisogna abbassarglielo appena appena, è vero che non entri più. Infatti, e usare omologati soprattutto, perché secondo cosa usi, non disturbi magari quelli del tuo palato, disturbi quelli di fronte, e ti rompono le palle quindi, capito? E quello è il problema. No, beh, non è mai aiuto nessuno in occhio. Sì, buono e prova. Non gli dico manco niente, gli dico, così è. Salgo sul tetto e gliela butto giù. Non essere così primitivo. Bisogna anche cercare un punto d'accordo, perché anche loro hanno ragione, se stanno al televisore di studi, magari stanno a un telegiornale, non devo troppo guardare. No, ma non è detto che sia il caso, anche infatti, magari da te no. Ci sono gli apparecchi che distinguono, bisogna adattare, hanno sentito quanto nuovo qua, e distingue il televisore, forse si deve già distinguare. Adesso prima di provare, di staccare quello, facciamo due prove. Ti porto l'omologato a casa, lo provi, se non distingui con l'omologato, ti metti l'omologato. Cioè, la seconda prova è quella di abbassare l'antenna, di abbassare l'amplificatore. Io devo abbassare, oltretutto loro sono intorno nel condominio, se andiamo in fondo, per qualunque caso non si può utilizzare, mi lo sai. Vabbè, mandami controllo, arrivano, ti trovano l'amplificato dell'antenna, ti vanno in un culo canto orgoglio, non si può utilizzare. Già lo so, poi c'è da Monte Oro di fronte, loro non ne hanno bisogno gli amplificatori, ma l'ha detto anche il tecnico che ha prestato l'antenna qua, ecco qua. L'amplificatore lo prendi benissimo, perché siete di fronte a Monteoro, non c'è bisogno dell'amplificatore, cosa la vedi voi a prendere spugli e basta. Ma è il punto, mettiamo degli spartitori normali e basta, con l'antenna che è andata. Se non bastava una ne mettevi due, ma non penso che ci siano problemi. Se se lui ci scoccia, ma cosa siamo pure tutti così, se lui ci scoccia gli dice ascolta fa una cosa, mandami quello che vuoi, va. Venivano, lo controllavano, il palazzo poi era un capore del palazzo, mi lo sai benissimo cosa succede. Un giorno in via Diaz, siccome l'amplificatore si era rotto, andava a disturbare i canali della TV, faceva da ripetitore. Gli hanno detto, se lei guardi, io li invito subito a staccare tutto. Se lei non lo stacca, noi interveniamo con chi è di dovere e a lei li facciamo, come si dice? Cioè, l'avrebbero rovinato a lui, gli avrebbero fatto un culo che manco quattro accusava. Non si può utilizzare assolutamente. Prima sono venuti quelli là, gli hanno fatto il controllo e l'hanno invitato a staccare. L'hanno invitato, dice se la cosa continua saremo, cioè veniamo con gli organi competenti, perché gli hanno detto caro signore, lei quello che ha messo non lo può utilizzare, gli hanno detto. Dunque gli amplificatori lì, a prescindere da non si possono mettere, sono cose che non si possono utilizzare, gli amplificatori da antenna, non si possono usare nessun tipo di amplificatore, ma con l'antenna lo stesso. Sì, ma anche gli stessi installatori, buona punici cose. Per loro ci guadagnano, se loro richiedono un pezzo, lo comprano un pezzo e te lo danno un altro, capite? Ci facciamo un guadagno anche dai pizzi. Sì, lo so già. Attenzione che ci sono le cose che loro, ma neanche qua ce n'è bisogno di queste cose qua. Perché metterlo? Non ho capito. E cosa vuoi dire? Lì c'è la ragione. Io questo qui quando mi è arrivato questo affare qui, stavo spaventando, perché l'avevo messo sicuramente nei canali alti. Sono 10 in un altro baracchino, c'è la gente e di 900 metri. Ho preso il telefonato subito al venditore, ma come è possibile? Io li provo prima di mandarli, li provo tutto. Ho detto, boh, non lo so, provo a fare così, provo a fare cosa. Niente, vabbè, gli mando il corriere a spese mie e glielo faccio cambiare. Poi ho toccato questo tasto qua e praticamente ti mandava nei canali normali. Però non aspetti, sta pizzando, mi ha fatto scendere uno spavento, per poco non mi viene un infarto. Perché di solito non vengono toccati di quegli apparecchi, mai nessuno si è lamentato. E gli ho detto, ma scusi, c'hai il canale sopra questo? Sì, quello lì è fatto dalla fabbrica così. Se tu lo metti normale esce con 40 canali, se no aumenta, va a 200 e passa a canali. Europeo, lo vendono anche in Italia così. Ma cos'è? Ma il codice ci devi mettere? Ah, non è sul codice, è scelta solo la levetta. Ah, ho capito ora. Scelta la levetta ti manda il canale sopra. Più rompiscatole sono quelli che non sai, quelli a codice, che quando l'ho preso io uno gli ho dovuto mettere il codice per andare in canale normale. Sì, io so, ci sono anche i presidenti. Lì ci sono più complicate. Non li puoi usare se non c'hai, devi avere una specie di password per entrare, se no non funziona. No, ciao, questi qua c'hanno proprio il codice, hanno. E vabbè, una password, un numero o qualcosa del genere, c'hanno. Se non la sai, non puoi entrare. Non puoi entrare, nessuno può entrare anche chi sa la password. No, non l'ho mai usato così. Questo non mi ricordo se è Jackson o quale apparecchiore, però ci vuole il codice. Sì. Ho fatto così apparecchi, infatti... da manera. Stracco gioco, anch'io adesso si torna. Poco fa. E il mare è stanca. Ma sei andato con la tua compagna oppure solo? Non ho capito. Sei andato solo con la tua compagna al mare? Io non ci vado solo, vado sempre con lei, lei deve stare sempre con me. Ma è altro che hai, cioè cosa ci vado a fare solo? Innamorato, di quella là, cotissimo, è innamorato, di quella là. Hai avuto, cioè, non è che sono innamorato, io mi prendo la domenica o il sabato sera, allora io voglio stare con lei, non voglio stare con, cioè, difficile che io stia con altre persone, cioè non è proprio fai bene anche. Se non è proprio per cosa, ho capito. Cioè, se non ho scelto una compagna con chi devo stare. Fai benissimo, tu. A me mi piace così, poi ognuno gli piace come gli piace. E io, ma cosa c'è? Uno può anche andare con gli amici, una volta non succede nulla, però se tu pensi che c'è giusto così, ecco lì non c'è problema. Con gli amici quell'oretta, quei 10 minuti, però se io devo stare una volta era una volta, adesso è adesso, se io devo stare preferisco stare con lei. Ma guarda, io mi sento che le faccio il sonnellino, mi sto addormentando. Va, ci sentiamo più tardi stasera, va, ciao. Ciao. Sto facendo un carico fittizio, aspetta. Kappa. Roba fittizia non ne voglio me. Kappa. Ti ho mandato la foto. Cosa? Ti ho mandato la foto. E che si vende sul carico fittizio? Cosa è roba per attaccare l'antenna? E un carico fittizio, tu, da 50 ohm sto facendo. Capito? Devo attaccare una radio. Kappa. Guarda che trasmette, cazzo. Una volta non riusciamo a comprare in bandiera. Si è dimenticato una bassona, cazzo, che abbiamo da giocare con fiducia attaccando e esci a volte, cazzo. Non se ne è manca bizzarro, non se ne è. Perché la radio vede 50 ohm. Cappa. Ma c'è che... Cioè c'era un raggio che sul carico fittizio, vero? Fuori di casa sì, ma non è che faccia questa cosa. Ho capito, non faccio questa cosa, però capisci, ma la soce. Addirittura ci sono proprio in vendita, mi hanno detto, vero? Certo che ci sono in vendita, tanto servono i carichi fittizi per fare le misurazioni, capito? Perché molte cose si devono attaccare a un carico fittizio, non in uscita all'antenna, capito? Per fare le misurazioni giuste. Perché se no non vanno bene. No, aspetta un attimo che misuro quest'altra resistenza. Ok. Fatto. Ti ho mandato la foto, visto? K. Giusto, te lo segna. Ah no. 50 ohm, adesso mi ricordo sono da 100 watt queste resistenze che ho comprato qualche anno fa per appunto fare tre carichi fittizi, 50, 75 e 150, però non chiedermi dove sono finite le altre resistenze perché non me lo ricordo più. Ciao. Già il carico fittizio, ma non è ancora collegato. No, adesso lo devo saldare a un PL e a un pezzo di cavo. Aspetta, ti mando la foto. Niente di sono che arrivi me. No, ma non mi serve per quello, Antu. Non mi serve mica per usarlo come antenna, no? Ma scherzo. Sì, vabbè. Ma magari facendo la prova funziona. Va bene, già sono ecco, tanto che le saldo a... Devo spellare il cavo, eccetera, eccetera. Ok, salda. Che è avanti? A me è buono, ero già sesso. Aspetta, buono, è buono, sì. Vabbè. Ma voi sentiamo da quanto là. Sono qua. Che sto svuotando un'armadia. Ok, Non ti ho provato, ma non ve la esci un po' aggetto. Sì, non c'è nessuno. Non c'è problema, siamo anche qua, noi stasera facciamo qualche prova. Non ti preoccupare, sono qua. Bene, ciao. Papà, ciao. Ora. sono Tarantino, noi dove siamo? Amici da bambini, Emiliano. Gappa. No, niente, ti ho detto, passo al 10 se è tranquillo, se si può chiacchierare tranquillamente, rimango qua, se no mi sposto, non c'è nessun problema. Se non entra nessuno a rompi l'anima e a farò male come è entrata lì, allora rimango qua, se no mi sposto. Sì, ma che guascio, io oggi è domenica, non riconvenimi. Vabbè, comunque già sembra a posto. Già sembra. No, mi fa piacere la verità, io qualche volta li ascolto la sera. Cavolo. Non mi fa piacere che si sta ripopolando. No, beh, anche a me. Mi dispiace che non c'era mai, ma Giampaolo, poverino. Lui aspettava sempre il momento che a Porto Torres ci fosse qualcuno a scambiare due chiacchiere, invece. Con chissà che si è morto, poverino, mi è dispiaciuto tantissimo, cazzo. Amici da infanti, è giocato in Paredi, proprio insieme a loro, Tonello, ci conosciamo da ragazzini. E vabbè, pazienza. Noi domenica, non domenica, a me poco mi interessa tutto, ti ripeto, te l'ho già spiegato. Se ci può chiacchierare, che c'è questione, anche a ridere e scherzare, l'importante non ci siano rotture di balle un'altra volta, se no prendo e me ne vado, non me ne fatti nulla. Appunto. Non ascoltando, ma chi esiste il buruvizio normale esiste? Esci, è come l'MC50. C'è l'MC50 e poi c'è l'MC60 che hanno fatto dopo, sempre senza circuito di preamplificazione. E poi hanno fatto anche l'MC60A, che è quello col circuito di amplificazione. E ho avuto tutte e due, anche io. Sì, e vabbè, Emiliano se ne è accorto. Uno di quelli senza circuito di preamplificazione c'era anche Roberto Quadrato. Non ha il tastino sotto. Però spinge lo stesso perché lui lo usa con il 440 che è superiore a quello che sta usando Emiliano, capito? Quindi amplifica parecchio. Chiaramente se tu, per dire, col tuo, con l'MC60 lo tieni a 1, a 1,5 col processore inserito, per dire, Roberto con quello lì lo deve tenere a 5 il mic gain della radio col processore inserito, se no non spinge. Alla fin fine non c'ambra quasi nulla, alla fin fine. Non lo so, ma è vera questa storia che mi hanno detto? Dici che si ripone le batterie hanno ancora di più, ma è vero o non è vero? Che te l'ha detto di là farsi un brodo di gigiole. Quella serie di batterie è nata con l'MC60 per usare l'MC60 su una radio che non ha l'alimentazione a 8 volts. Mi comprendi? Capito? Quindi tu puoi usare l'MC60 su un baracchino, su una radio come questa, no? Facendo la connessione sua, eliminando gli 8 volts e quindi usando solo 4 fili anziché 8. Però per poter far funzionare il circuito di preamplificazione devi mettere le batterie, solo a quello serve. Ah, ecco, ero rabbia. Ma si continua a sentire un sacco di stronzate, capito? Cosa fai tu? Se tu metti le batterie e usi il Kenwood, quell'MC60 non cambia niente, nel modo più assoluto. Non fai altro che sovralimentare il circuito di preamplificazione e lo bruci. Capito? A meno che non le togli il circuito di preamplificazione da sotto e quindi lo usi con le batterie. Sono tutte stronzate, quello è nato, l'MC60 è nato con la serie batterie per poter usare il microfono su radio che non hanno gli 8 volts e quindi non viene praticamente alimentato. Tutto qua. Ora ho capito. Vabbè. Io te lo dico perché mi hanno insegnato così. Anch'io, quando ho visto questo microfono, nel lontano 1990, perché io dal 90 che uso l'MC60, i primi microfoni MC60 che ho avuto non erano marcati Kenwood, erano marcati Trio, quindi immagino già di due. Si me l'ha giovata una cultura. anch'io volevo sta cosa, ho detto ma se metto le batterie amplifica ancora di più, vero? Ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Lascialo così com'è, serve a fare un'altra cosa quello. Non lo sabbia, come mai Triol? Perché prima la radio le faceva questa Triol, o come mai? Prima di chiamarsi Kenwood si chiamava Trio, capito? Prima di chiamarsi Kenwood si chiamava Trio, poi da Trio hanno messo la scritta Kenwood. Non ho capito. Chissà se esiste qualche apparecchio ancora in giro. Guarda, io l'ho venduto l'anno scorso, l'ultimo pezzo Trio. Io avevo la T230 della Kenwood, l'accordatore del TS930, prima 940 che era Trio Kenwood a T230. Poi avevo il TS780 che era un VEU base a 220, lo stesso Trio Kenwood TS780, li ho dati l'anno scorso. Aspetta, non lo sapevo che si chiamava Trio. Quali erano proprio i primi modelli erano? No, Trial no, Trial è la moto, Trio. Trio, c'era un alberino disegnato, marcato, Trio, capito? Ad esempio, il microfono che c'ha Franco California, il uguale a quello, l'MC60 c'ha Franco California, che gli ho dato io, non è Kenwood MC60, è Trio MC60, capito? Uno dei più vecchi, la pipina la matrice cosa, il circuito uguale, tutto uguale. Ma la componentistica è diversa, però, Anto. La componentistica è diversa, molto più robusta. Se vedi quel circuito stampato, era doppio, grosso, lo doppio di chi va giù io, Kenwood. Erano sicuramente migliori. La componentistica di allora, Anto, con quella di adesso, ma non c'è paragone. Non c'è assolutamente paragone, anche l'assemblaggio, le cose che facevano prima, soprattutto la Trio, ma manca paragone con quelle che sono nate dopo della Kenwood, capito? Perché io mi ricordo il primo 430 che ho avuto, che era Trio, era Trio, Kenwood, Trio, non Kenwood, Trio TS430, ma manca paragone con quello della Kenwood che ho adesso, perché l'interno era completamente molto, molto più assemblato. Meglio di questo, capito? La componentistica si vedeva che era più teccia, ed è così, la realtà è quella. I componenti di oggi non servono a niente, quelli di allora sì, ma non servono più. Questo è uno di quelli. Cosa? Buonasera, questo è uno di quelli che la componentistica vecchia era. Il coso, il Galaxy? No, questo è il 3009, Claudio. Il 3009 vecchio modello o no? No, è su Falstar, no, ma c'ha la componentistica, c'ha il circuito PLL, ma c'ha di quelli microcircuiti, capito? Sì, ma infatti è così, ma molti baracchini, molti, io c'ho l'Elbex che tu ben conosci, ma non sai quanto pesa, a differenza di un altro Elbex dell'era di oggi, ma è una grandissima stronzata. Molto più pesante, più dall'interno è fatto molto molto meglio, la componentistica si vede che è più robusta, ma anche il circuito stampato, tutta la, in generale va molto meglio, stavamo facendo la proporzione, stavo spiegando Antonio la proporzione tra Trio e Kenwood di adesso, ma neanche a paragone, tu, ma neanche a paragone, capito? Oggi la componentistica ti dura, cambi per dire un condensatore, ti dura 6 mesi e scoppia, i condensatori di allora duravano anni, capito? Anni. Adesso la componentistica è proprio fatta a stracco baratto. In ogni caso buonasera, mi sto appena svegliando. Ci siamo accorti già, buonasera, non c'è bisogno di salutare. Ci fa piacere che sia entrato. Avanti Anto. Capo, buonasera Gianni. Ah, io sono addormentato come una pietra. No, io mi stavo guardando un po' di sport e non mi sono addormentato, poi mi ho impegnato qua e sto, te l'ho detto, svuotando armadi, mettendo a posto, già insomma cercando di... Questa cameretta l'ho completamente svuotata perché è quella che mi interessa più di tutti, poi i mobili già si arrangiano quelli del trasloco, ma questa me la sto facendo io, quindi mi ho imballato tutto stamattina, ho portato via tutte le radio, come ti ho detto, qualche altra cosa l'avevo portata via in campagna. Niente, c'è rimasta poca roba, c'è il Galaxy, la parte rimanente del 430 che purtroppo ancora non è arrivato, è sempre al centro assistenza. È la parte del tetto, la mantenne. No, in realtà gli ho tolte tutte, non c'è più, c'è solo la mantova, cos'è? Non c'è più niente sul tetto già, tutto, non c'è né V, né U, nulla, c'è solo la mantova, è l'unico cavo di discesa che è quello che ancora è agganciato su, ma lì ci vuole 5 minuti, abbasso la mantova, la smonto e tiro sul cavo, basta. Quindi è imminente il trasferimento qua? Beh già, io prevedo prima dell'estate, perché l'altro lo facciamo ad aprile, però intanto mi sto organizzando, sto iniziando a smontare roba, a portare via, capito? Vabbè. Speriamo che sia una buona zona quella, ma sempre la stessa campagna, non è per avete preso altro. No, sono davanti a te, sono a 320 metri dal livello del mare, qua sono a 280. Sono davanti a voi, tu ti affacci nel buongiorno, non lo so, ma nel terrazzo, se vai sul terrazzo, dove vedi il ripetitore della RAI, quella casa che c'è un pochino più avanti, rosa, io sono lì. Diciamo che per i paesi magari forse la più favorevole è dal grattacielo. Già fatte le prove, già. Ehi, sono stato due mesi d'estate, no, non c'era problema, già fatte le prove. Arrivo, come arrivo da qui, ho tutto, in più, stai attento, in più, ho preso anche la parte del mare, perché vedo più il mare, sono aperto più il mare, verso Castelsardo, verso tutta quella zona. Quindi se qua prima ne avevo 5 di posizioni, adesso ne ho 6. Ripetitore non ti dà fastidio? No, c'è una schermatura assoluta, mi dava un po' fastidio in VHF mi sembra, in VHF o in UHF se non mi ricordo, però il 27 no, ho provato lì, mi hai sentito una volta da lì, mi ricordo se l'estate scorsa, non quest'estate perché eravamo in lockdown, ma l'estate scorsa già mi hai sentito da lì. Il dipolo era il mio 920 SS, siete tutti davanti, c'è un latte dolce a neanche un chilometro, proprio il primo che vedo è tutta la parte bassa del monte, che sono lì, tutta la parte bassa del monte, compreso tu, e poi si vede tutta la parte alta, sino ad arrivare a Filighetto, e poi dall'altra parte si vede tutta questa zona qua, no, non è molto aperta, e se c'è ripetitore lì. Non mi lamento, ma ti ripeto, devo ancora sondare, vedere, capire, sapere. Poi si vedrà, prima mi devo schiamare a casa, poi arrivano le radio e quant'altro. Vai a tu. Cappa, lì ci abita una mia zia in quella zona. E chi ha già voci, perché è un bel in alto. Si vede tutto, si vede da lì. Minimo io ci arrivo un bel forte, ma forte per me. Guarda, 2 anni fa io ho proprio parlato con Gianni, non so se si ricorda, io arrivavo da Lucca, al monte arrivavo a 9.20, col dipolo, e Gianni mi arrivava quasi 9.30 col dipolo, ma montato da un albero all'altro così, capito? Guarda, 100-200 metri c'è la casa dei genitori della ragazza di Luca Maicomio, proprio siamo 200 metri attaccati. Il cavolo, è proprio lì, è bella quella zona, secondo me anche io ci arrivo un bel forte, ti arrivo, perché non è che sia, ci sono favorevole lì. Si chiama località Balcone, sai perché si chiama località Balcone? Perché è proprio come un poggiolo, è una collina dove vede tutto Sassa, c'è Usulo davanti, proprio si vede, non il ripetitore di Dio, si vede Usulo come paese, quindi immagini già dei dubbi. Poi non te lo ricordi Gianni a Antonio di Monteoro? Non te lo ricordo, sono a 200 metri da dove abitava prima lui. Sì che me lo ricordo, io a Puglia, roba dei risalti siamo andati durante le Monteo di notte, poi mollava per collegare i sassili, ogni tanto mollava. Sant'Antonio, a me qua a casa mi arriva poi facevamo prove la notte, anche la sera, la domenica, eccetera. Avevamo fortissimi Alghero da tutte le parti, anche nella zona del Campidano, da sempre. No, una bella zona quella. È una bellissima zona, poi c'è una pace, cioè, mi tornerà veramente la memoria, perché qua sono un sacco di casini, già che non ti dirò in verticale, ma casini, hanno mandato via l'amministratore, siamo in amministrazione controllata, sono mancati soldi dal bilancio, un casino, sta succedendo un casino, siamo tanti, siamo 120 persone, e c'è una rivolta totale, quindi non ce la faccio più a stare in mezzo agli taglienti, basta, vogliono fare, disfare, un casino c'è qua. E quindi non ne avevo intenzione, te lo giuro, non avevo nessuna intenzione, però abbiamo preso la decisione in famiglia, io molliamo tutto, mettiamo in vendita la mia fortuna che hai comprato, una del mio palazzo, la figlia di uno che abita nel mio palazzo, che usciamo quasi tutti i giorni a prendere il caffè, quindi ho avuto anche il culo. Vabbè, dai, interessante, li abbia venduto bene, che sei soddisfatto di quello che fai. Soddisfattissimo alla grande, perché io volevo già farlo, solo mia moglie diceva, tu lavori, io sono sola tutto il giorno, capite, aveva ragione, adesso invece io sono a casa, non lavoro, poi a fianco a me c'è mia figlia, quindi è una bifamiliare già, capite, quindi no, non cambia niente. Già va bene, dai. Così Filippo può correre. Sì, Mario Dene, gli si due gavate 30 ore e cito, sì che può correre. Non ci va molto d'accordo con quei due cani, ogni volta che lo porto quei due devono rimanere chiusi. Si tira una barretta, hai capito? Non lo bovirei perché non l'hanno mai visto, in definitiva non l'hanno mai visto, come dice qualcuno. Da piccolino sì, ma poi non l'hanno mai visto. Quindi ho detto che problemi non ce ne sono, vabbè. Io Baliscio già faccio la gara Branova, sempre pronta, ve l'ho già detto. La dighi uno degli scegani, un scegaggia a Filippo, io ti riparo tutti e due. Non partire così, parti tranquillo. Se parti con qualcosa di bisticciare, buonanotte, cerca di andare d'accordo. No, io ci vado, guarda, sono quello che amici a mio genere, siamo 10 anni e lui che ci conosciamo, lo conoscevo anche da prima perché conoscevo il padre dell'angelo, quindi non c'è problema. Per lui c'è questa mania dei cani, e non fanno niente, noi così. Un giorno ce l'aveva Ilaria, per esempio, lui ce l'aveva a guinzaglio, tutti e due a guinzaglio, il grande, il presa canario, il Filippo di Bassasotto, che ha 70 kg di gani. Filippo stava andando a giocare, si è girato, ha avuto un mosso al culo, ne ha buttato 3 punti, non va bene. Quelli sono cani grossi, anche se Filippo la sua forza ce l'ha perché c'è la sua muscolatura, però sono cani superiori, nel senso che tu non hai zampato, la fa in terra e poi lo mosca. Ma Zampada, 70 kg, è un cavallo, quei due cani sono un cavallo, ma il presa canario è ancora più cattivo del pastore del Caucaso, capito? Perché quando era veloce Mario, non si avvicina a nessun cane, lo conoscono tutti, ma non si avvicinano proprio, lo ignorano, ma già tanto un acribato, non fa pitbull, non fa nuda che tenga, è un bestione, è un cane grande e cattivo, cazzo c'ha la testa 2 volte di Filippo. Però è molto intelligente, risponde ai comandi del padrone e tutto, però non ti devi avvicinare. A me mi fa feste tutte e due, la verità, però se sono da solo, se ho Filippo a guinzaglio mi ringhiano, capito? Quindi non va bene. Vabbè, comunque, si vedrà, dai, non è un problema quello. Ehi, non sarà un problema dei gambi, no? Avanti, Antu. Più là, se decidono di farci una famiglia, chi se ne deve cavare per forza, che non è che li puoi fare, cioè, non si possono molto far avvicinare, soprattutto a cose, cioè, perché sono pericolosi quei cani, cioè, bisogna stare attenti, dai, perché sono cani imprevedibili. Sì, beh, siamo fatti loro, io non ho problemi, Filippo non durerà un'eternità, poverino, c'ha già 9 anni, quindi intanto me lo porto con me, rimane dentro casa con canile, no? O le faccio un altro canile fuori, ma non cambia niente per il mio cane. Il mio cane è l'appartamento, sta dentro casa, perché è casa mia, non è che vivo con loro io, loro sono a 20 metri, a 50 metri da me, quindi no, non ce n'è problema. Quindi io sono a casa mia, il cane sta dentro, non è che casi vuole. Quando sono dentro il recinto io a Filippo lo mollo, faccio i bisogni e poi lo riporto dentro, non è che tardi, se c'è sole sta in veranda, cioè già come non cambia niente a tu. Assolutamente, poi loro chiaramente a casa sua sono liberi di fare quello che vogliono, non è che confini noi abbiamo, però se c'è il rispetto almeno dei cani, perché del resto c'è il rispetto, anzi anche troppo. Però il cane è un pericolo, è un pericolo. L'altro giorno mi è andato male a portarli a mangiare, perché quando loro non ci sono i cani sono sciolti, quindi apriti cielo, apriti cielo. E proprio davanti, una ventina di metri dopo l'ingresso, c'erano tre gatti morti, ma non morti, no, non morti, lasciati lì, fatti a pezzi. Sì, poverine, ga. Così no, non va bene neanche, cioè, non lo so, questi cani hanno assaggiato il sangue, sono pericolosi, so. Bisogna stare molto molto molto attenti. Io gliel'ho detto, a me mi è piaciuto tantissimo, tanto tanto tanto, ma tu è, ma se i gatti vanno, se i gatti vanno loggia, cioè a prendere i gatti ci vuole fegato. Sto dicendo che sono due cavalli, due pony sembrano, non due gani. Io quando vado a mangiare li dimmo, credimi che li dimmo, però sono tranquilli, sono tranquilli. Io non c'entro dentro il recinto, Edo è tra Joe, Gavardi, pulisce tutto lui, a me non mi interessa. Però qualche volta ci sono cani che c'è, se va in campagna c'è il giardinone pronto, da mangiare glielo dai cani, sì, c'è la finestrella nel recinto, io apro la finestrella e bombo un po' quella giottola uno, un po' quella giottola l'altra, e torna a salare la finestrella, non va entro dentro. No, ma fai bene a non fidarti, non ti fidare, non lo sai mai, no, io non me l'ho fidato, non è che fai bene, no, di più, fai bene a non fidarti, anche sono imprevedibile, so. Dai, avete parlato in due, cosa hai detto già? Ho detto, basta far uscire alternativamente, prima fai uscire a Filippo, poi fai uscire a loro, viceversa. Così non mi stinge. Infatti così ha detto Mario, non si preoccupi, se non qua che li facciamo uscire. No, allora, il grande a Filippo un po' lo conosce, il paese canario, che è sempre un molosso, è il più grande dei molossi, ti ho dato anche la foto una volta. L'altro, il pastore del Caucaso, è molto diffidente, capite? È molto diffidente, perché da piccolo stava con quello lì e quindi hanno fatto amicizia. Invece a Filippo non l'ha mai visto. Se Filippo va a rompere le balle praticamente a Rubabu, perché è simile a Rubabu, non succede niente. Ma se sono tutti e due fuori, l'ammazzano a Filippo, vanno a pezzi, capite? Tutto lì, la mia paura è quella, infatti gli ho detto, li fai uscire una volta, problema ce ne so, penso non ce ne sia. Comunque dai, ancora già siamo qua. Io oggi siamo portato, chi è che siamo portato l'Alghero? Ah, Giuda, ha preso a Canario, se tu vedi che su Gane rimane la baraura, a guinzaglio con Mario, cammina a fianco a Mario, e se qualcuno dice sì, che bello, posso toccare, stai seduto, fatti toccare, e dove si gocca in terra, se va di tutto a pezzi si fa fare, però deve essere a guinzaglio, se non è a guinzaglio è bescio. Se il padrone glielo dice si fida, capito? Sono tutti così i cani, c'è poco da fare. Bisogna stare attenti perché il cane è imprevedibile come è Pantone. Il gioco che gli gira di capo, vivi incannato. Oh già, io. Allora Balù, che è il cane di mia sorella d'Alghero, no? Quello che abita a Fertiglia, era un pastore maremmano. Pastore maremmano grande, molto grande, ma bellissimo, piroso, balia lì su Rugani di Heidi, i suoi cani uscì. Sembrava infatti un incrocio tra un pastore del Caucaso e un pastore maremmano, invece poi è risultato un puro pastore maremmano. La cucciola era una cosa bellissima. E da grande lo stesso. Sono andato in campagna a mia sorella, un giorno lì a Fertiglia, lì sulla strada dei. quindi a Fertili, alla nostra arriva a Santa Maria a Palma, c'è una campagna. E mi ha detto mio cognato, qua, che sto tagliando l'erba, e lo prendi il rastrello. E c'era il rastrello, e lui era libero, ma due minuti prima, ho detto, ma lui vieni che te lo va bene. Gli ho messo l'acqua, tutto accarezzato, stavo anche giocando. Cazzo, mi ha detto mio cognato, vai a prendere il rastrello. Prendo il rastrello che era in terra, proprio era per terra, perché lui stava raccogliendo l'erba, e lui era vicino a me. Come ha visto che ho preso il rastrello e stavo andando verso mio cognato, mi ha fatto un mosso al braccio, mi hanno messo 6 punti. Forse perché pensava che stavano a picchiarlo, a fargli qualche male, capito? Sicuramente quello infatti mi ha detto. Ma la mano mi ha preso la vena del braccio, ce n'ero morto. Io ho cominciato a vedere sangue, subito l'abbiamo, perché mi ha morsicato e poi ha mollato. Se strappa me ne stacca il braccio. 6 punti, c'avevo 3 denti sopra e 3 denti sotto, capito? Proprio buccato. Subito abbiamo fasciato, sono andato a pronto soccorso, mi ha messo 6 punti, 3 sopra e 3 sotto. Ma una volta no, sono andato da Sacchetti, quello che va andare a Caldaglia, a casa sua, ma viene il subbattore tedesco, non mi ha musicato la giappa, ha detto, guardi, non lo faccia più uscire, gli ho detto, per carità, ho detto, perché se no la prossima volta guai. Se te l'ho detto, già fa Filippo quando viene Mario a portarmi la bombola. Prima, il primo periodo, non lo faceva manco entrare, manco entrava, zia, lo abbagliava, lo faceva, lo ringhiava, nuda. Così non mi sono rotto le palle. Come ti ha suonato Mario, ha detto, esiti all'ascensore, noi esci dall'ascensore e aspetta la fuori. Ma non canegliato, tu esiti a volo, non ti preoccupare, ho messo questa e l'ho portato fuori, esiti. Toccalo Mario, no, toccalo, non ho detto, non ti permettere mai più di morsicarlo. È un amico mio quello, hai capito? Brutto imbecille che non sei altro. Oh, adesso quando arriva lo aspetta l'ascensore, deve mollare la bombola perché le salta sopra a giocare. No, a me quando mi ha visto l'altro giorno stava giocando, è contento, o un pacchiotto. Hai visto? E a te non ti ha mai visto, hai visto come fa? Ce l'avevo io al guinzaglio, ho visto che si è avvicinato a me, siamo toccati eccetera, e me ci hanno avanti, mi mamma, e tu giù da giocare. Così è quello di Gianni, ma c'è quanto intelligente quel cane. Capito? Io un giorno sono andato a casa di Gianni, quando mi ha visto la Ianna era pronto a detto, quello è un amico mio, vai, vieni, toccalo, guarda, vieni. Cazzo, dai, guarda, quando mi vedi, vuoi giocare, piglia la pallina, vuoi giocare. È bravissimo quel cane, però sempre perché gli hanno insegnato il padrone, se no non è venuto a lavare, seguisse casa sua, tu non puoi entrare. Ora penso un poco diversamente, io c'è l'onfio, Teso è già, ha detto che Teso è l'onfio. No, non è l'onfio, è, diciamo, è diffidente un po', però se fa amicizia con la persona, poi ti dà il cuore. Quando amici viene all'ascensore a pigliarti, lo stesso fa qualcuno che ti piace. A me non mi fa così. Poi va a prendere la pallina, te la porta, non ne ho voglia giocare, non ne ho voglia, vai Dini, allora sta lì vicino a romperti le palle, però è bravo, ma perché gliel'hai segnato Gianni, altrimenti il cane è così, se quella è casa sua e non ti conosce, tu non gli puoi entrare e uscire, devi domandare permesso, non c'è niente da fare a tu. Ehi, non lo so che ha domandato permesso, io sono un bestio, altro che, mi vogliamo musicare il braccio. Antonio è un po' scottato perché lì si stava avventando addosso, ma perché io gliel'ho detto, non insistere a carezzarlo, così poi si rompe le scatole. E piano piano fa amicizia, capito? Si avvicina a lui, ti odora, fa. E devi lasciare il tempo di studiarti bene, capito? KK, no, vabbè, ma i cani sono così, se hanno l'educazione dovuta dal padrone, perché che diciamo un sacco di stronzate, questo mi ha raccontato mio genero, che di cani se ne intende, ha anche il patentino di addestramento per i cani, E lui dice sempre questo: se il cane tu le insegni a diventare cattivo come il pitbull, ci sono dei pitbull, io ce n'è uno qua che gioca con Filippo ed è grande, è anche più grande di Filippo come taglia, eppure ci gioca, perché? Perché il padrone l'ha insegnato e uno deve giocare con tutti.